Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La pedofilia posso capirla, l'omosessualità non lo so. In che senso posso capirlo? Che c'è che esiste? Perché io sono fatto tanta scuola, no? I bambini li conosco e purtroppo ci sono bambini che cercano affetto perché non ce l'hanno in casa e magari si trovano qualche prete, può anche cedere, insomma, lo capisco questo. Cioè che quindi praticamente sono un po' i bambini che... Buona parte sì. Se sono i bambini, dice questo sacerdote Don Gino Flaim, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un collaboratore pastorale della chiesa di San Pio X a Trento, lo ha detto in un'intervista alla 7, sentito, dice sono i bambini d'altronde che provocano, e quindi, e sull'omosessualità invece ha detto che lui l'omosessualità non la capisce, mentre la pedofilia sì. E beh, durante la giornata poi la diocesi di Trento ha ben pensato di revocargli i vari incarichi che aveva presso questa diocesi di Trento, ci sembra il minimo. A proposito delle discussioni di questi giorni, visto che c'è anche in corso il sinodo del Papa con cardinali che vengono dalla gran parte del mondo, ma fosse stato anche semplicemente un momento dell'anno qualsiasi, quante cose abbiamo da raccontarci anche stasera, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché parleremo della possibilità, dell'eventualità, da questa indiscrezione di stampa, che l'Italia possa intervenire militarmente in Iraq. Ecco, su questo vi chiederei il vostro parere, se effettivamente si dovesse intervenire bombardando, quindi non soltanto con ricognizioni, con addestramento dei soldati locali eccetera, ma se dovesse intervenire proprio militarmente, insomma in una guerra bombardando, che ne pensereste? Poi sentiremo anche cosa ha detto la ministra della difesa Pinotti. Comunque già oggi il ministro della difesa ha detto è solo un'eventualità, però diciamo è un'ipotesi, ma non hanno smentito categoricamente. Questa era un'indiscrezione del Corriere della Sera, secondo la quale a giorni potrebbero esserci questi interventi militari dell'Italia in Iraq. Ma voi che posizione avreste rispetto a questa eventualità? 349-238-6666, lo sapete sempre il numero per inviare i messaggi qui in trasmissione, 349-238-6666. Se no, molto comodamente avete a vostra disposizione Giorno e Notte, la pagina Facebook del programma, la pagina Effetto Notte. Un sacco di cose vi dicevo da raccontarvi, man mano ve le snocciolerò tra i vari argomenti. Cercheremo anche di capire cosa sono i neutrini, ma soprattutto perché il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a due studiosi che hanno fatto questa scoperta sui neutrini. Vi ricordate i neutrini, quelli che dovevano passare attraverso un lungo canale che attraversava tutto lo stivale dell'Italia, secondo una ministra di qualche anno fa. Vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più su questo e su tanti argomenti della giornata. Economia. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le previsioni di crescita globale ma rivede al rialzo le stime sull'Italia. Può fare anche meglio della Germania, dice il FMI. Contratti. Il presidente di Confindustria Squinzi commenta: stop alle trattative, i sindacati sono su posizioni irrealistiche. E il leader della UIL Barbagallo replica: Squinzi non la conta giusta, fa la sponda al governo. Riforma. Il Senato approva l'articolo 10 con 165 sì e 107 no, articolo che modifica l'articolo 70 della Costituzione in merito al procedimento legislativo affidato a Camera e Senato. La lotta al terrorismo, tensione tra Turchia e Russia sui bombardamenti in Siria, e Grillo protesta sul possibile impiego dei tornado italiani in Iraq. Migranti. Il rapporto dell'OIM parla di circa 3.000 morti dall'inizio dell'anno. Intanto l'Unione Europea annuncia un accordo di collaborazione con la Turchia. Fiat Chrysler e i sindacati pronti allo sciopero negli Stati Uniti. Roma, la procura apre un fascicolo sulle spese di Marino, per ora non c'è ipotesi di reato. Trento, un sacerdote, l'abbiamo sentito in un'intervista, dichiara: capisco i preti pedofili, non i gay, la diocesi gli revoca gli incarichi. Nobel per la fisica, il premio assegnato al giapponese Kajita e al canadese McDonald per le ricerche sui neutrini. Partiamo quindi dalle previsioni positive del Fondo Monetario Internazionale sull'economia italiana. L'Italia può fare di più, anche meglio della Germania, ha detto Thomas Ebling del Dipartimento Economico del Fondo Monetario. L'Italia, ha commentato Renzi, contento, è tornata, ma questo è solo l'inizio. Secondo le stime dell'istituzione con base a Washington, la crescita dell'economia globale è tuttora in atto, ma il ritmo è moderato e i rischi a ribasso più pronunciati. Da qui il taglio dello 0,2% delle previsioni per quest'anno e il prossimo, rispettivamente al 3,1% e al 3,6%, a pesare soprattutto la frenata dei paesi emergenti penalizzati dalle fibrillazioni della Cina e dai bassi prezzi delle materie prime. Per le economie avanzate, invece, dice l'FMI, il pericolo è quello di un ulteriore rallentamento di una crescita già debole e vicina alla stagnazione. Colpa tra le altre dell'inflazione che resta bassa in particolare in Giappone e nell'area euro. Quanto al nostro paese il Fondo Monetario vede invece positivo. In Italia la crescita è più forte del previsto e il PIL quest'anno segnerà un più 0,8 per poi accelerare all'1,3% nel 2016. È di sicuro possibile che l'Italia possa fare come o meglio della Germania, dicono dal Fondo, ma nel lungo periodo è più difficile senza interventi sulla produttività. Altro capitolo quello della disoccupazione. Secondo il Fondo Monetario il tasso in Italia resta sopra la media dell'area euro, ma in discesa, 12,2 quest'anno, 11,9 il prossimo. L'Italia è tornata, ma questo è solo l'inizio, commenta il presidente del Consiglio Renzi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vedo, sono già arrivati subito immediatamente dei messaggi, sia sul prete che difende i pedofili, sia sull'eventuale intervento dell'Italia in Iraq. Voi continuate con i messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia con gli sms al 349-238-6666. Ma restiamo sulla pagina economica occupazionale, diciamo, per le trattative sui contratti. Dalla sala di Asso Lombarda il presidente di Confindustria Squinzi ha fatto il punto delle trattative con i sindacati sul nodo contratti e dice: non abbiamo margini di manovra per poter proseguire il colloquio sui contratti nel modo tradizionale. Per noi, dice Squinzi, è un capitolo chiuso, sono mesi almeno da luglio che ci prendono a schiaffoni e rinunciano a tutte le nostre aperture. Ne prendiamo atto, conclude il presidente di Confindustria. Arriva la replica del leader della UIL Barbagallo che dice: il presidente di Confindustria non la racconta giusta, ricordando di aver presentato la proposta UIL a febbraio, dice: si sono improvvisamente svegliati e fanno da sponda a un possibile intervento del governo. Questo è un film che non vorremmo vedere, dice Barbagallo. E siamo sulla politica, parlando di riforme. Il Senato approva l'articolo 10 con 165 sì e 107 no. L'articolo 10 è quello che modifica l'articolo 70 della Costituzione in merito al procedimento legislativo affidato sia alla Camera che al Senato. Dopo proveremo a capire a che punto è il cammino di questa riforma. Ora siamo alla lotta al terrorismo, tra i bombardamenti in Siria, la crisi internazionale, come dicevamo, le polemiche in Italia sull'eventuale impiego dei Tornado. Ancora tensione nei cieli sopra la Siria. 8 jet F-16 turchi che stavano pattugliando il confine siriano si sono trovati per oltre 4 minuti nel mirino di caccia MiG-29 di provenienza ignota. L'episodio segue quello analogo avvenuto domenica, dopo che già sabato jet russi avevano violato per 2 volte lo spazio aereo turco a causa, questa è la spiegazione del Cremlino, di un errore dovuto al meteo sfavorevole. Per il segretario generale della NATO, Stoltenberg, non sono stati incidenti ma pesanti violazioni, provocazioni di Mosca all'indirizzo di Ankara e della stessa NATO, di cui la Turchia è parte. Da Mosca anche la smentita a un'altra affermazione di Stoltenberg, secondo cui la Russia sta facendo convergere in Siria anche le sue truppe di terra. Intanto il Ministero della Difesa italiano, dopo indiscrezioni di stampa, definisce solo ipotesi ventilati bombardamenti da parte dei caccia italiani in Iraq. Così a effetto giorno il sottosegretario della Difesa Domenico Rossi. Sono comunque ipotesi che nel momento in cui dovessero essere configurate come tali dovrebbero passare al vaglio dell'esame parlamentare. Dal suo blog Beppe Grillo ribadisce che l'Italia non può entrare in guerra senza prima un'approvazione da parte del Parlamento e un'approvazione da parte del Capo dello Stato. Mattarella, dove sei? Scrive il leader 5 Stelle. Negli stessi minuti il Presidente della Repubblica affida all'agenzia TASS il suo pensiero per sconfiggere il terrorismo fondamentalista. Afferma Mattarella, serve una risposta di collaborazione di tutti i paesi nell'ambito della comunità internazionale perché iniziative unilaterali non riescono a risolvere il problema. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I vostri messaggi intanto già su questo argomento al 349-238-6666 sulla pagina Facebook del programma. Purtroppo, dice Roberto da Bergamo, ogni tanto le guerre giuste vanno fatte, non si può sempre solo contare sugli altri. Mentre Alberto scrive: se lo vuole Obama e Cameron, il primo ministro britannico, Renzi obbedirà, conclude Alberto. Adesso però continuiamo ad andare avanti con la sintesi della giornata, poi torneremo su questo naturalmente. Parliamo di migranti perché l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni riferisce di 3.000 morti nel Mediterraneo nel 2015 sinora, e a Bruxelles oggi commentato, è stata resa nota la bozza sulla possibile intesa tra l'Unione Europea e la Turchia sull'accoglienza. Di questo ci occuperemo poi più tardi qui effetto notte. C'è anche una notizia che riguarda Fiat Chrysler, perché i lavoratori del gruppo in America sono pronti allo sciopero, lo riferisce lo stesso gruppo Fiat Chrysler, spiegando di aver ricevuto dal sindacato americano del settore dell'automobile il preavviso per un possibile stop. E dalla Fiat Chrysler al caso Volkswagen, visita al quartier generale per il nuovo amministratore delegato Müller. Ha avuto 10 giorni Mattias Müller per fare il punto della situazione dopo l'addio dell'ex Martin Winterkorn. Poi si è presentato davanti ai 20.000 lavoratori riuniti in assemblea a Wolfsburg. Usciremo dallo scandalo solo attraverso un percorso doloroso, spiega. I 6,5 miliardi accantonati non basteranno. Subito il pensiero va ai dipendenti e arriva il chiarimento. Al momento non ci sono conseguenze sui posti di lavoro. Impossibile però quantificare gli effetti dello scandalo e l'azienda annuncia risparmi massicci. Tutti gli investimenti non necessari saranno cancellati o rinviati. Le soluzioni per risolvere i problemi comunque sono imminenti. Nel mondo ci sono 11 milioni di motori diesel manipolati, 8 milioni in Europa, 650.000 in Italia, dove una notizia positiva c'è, spiega il presidente di Anfia Vavassori a Focus Economia. Ad oggi non rileviamo significative diminuzioni delle intenzioni di acquisto da parte dei consumatori. Questo è un ottimo segnale. Significa cioè che si è riusciti a fare chiarezza. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbandoniamo il settore delle auto e torniamo a parlare invece di Ignazio Marino, poiché la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulle sue spese. Al momento non ci sono né indagati né ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla Procura di Roma sulle spese del sindaco Marino. Si tratta di un atto dovuto dopo le denunce di Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, che nei loro esposti ipotizzano il reato di peculato. Le indagini sono state affidate al pubblico ministero Roberto Felici del pool reati contro la pubblica amministrazione. Agli atti ci sono anche ricevute di spese sulle quali le opposizioni in Campidoglio hanno chiesto di fare chiarezza anche alla Corte dei Conti. I sospetti si concentrano soprattutto su alcune cene istituzionali avvenute in giorni festivi e nei fine settimana in ristoranti vicini all'abitazione di Marino, che per ora sceglie il silenzio. Ieri il Campidoglio ha minacciato querele ricordando che tutte le sue spese sono state pubblicate online. L'apertura del fascicolo è una non notizia, commenta invece l'assessore alla legalità, l'ex magistrato Sabella, il quale assicura che il sindaco ha agito con correttezza e trasparenza. Andrea Viali, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. Sapete che sempre a Roma e in Vaticano è in corso il sinodo sulla famiglia. Oggi, secondo giorno, ne abbiamo parlato molto ieri. La dottrina cattolica sul matrimonio non è una questione non è messa in discussione da questo sinodo sulla famiglia. Papa Francesco lo ha sottolineato oggi. E intanto irrompe il caso di un sacerdote di Trento in seguito alle sue dichiarazioni sulla pedofilia e sull'omosessualità nel mondo della Chiesa. Della pedofilia posso capirlo, l'omosessualità non lo so. Don Gino Flaim, collaboratore pastorale della chiesa di San Pio X a Trento, lo sentite, giustifica i sacerdoti pedofili perché, a quanto dice, sono i bambini la causa. Purtroppo ci sono bambini che cercano affetto, perché non ce l'hanno in casa e magari si trovano qualche prete. Può anche cedere, insomma. Qualche prete può cedere, dice Don Flaim, che aggiunge: la pedofilia è un peccato e, come tutti gli altri, va accettato. Immediata la reazione dell'arcidiocesi di Trento, che gli revoca l'incarico di collaboratore pastorale e la facoltà di predicazione. La chiesa di Trento ha sottolineato che le parole di Don Flaim non rappresentano il sentire della comunità religiosa. Parole che stridono infatti con il messaggio di Papa Francesco portato in America alle vittime dei pedofili ecclesiastici. Ma non solo, il sacerdote ha anche messo a paragone la pedofilia con l'omosessualità, definendo questa una malattia. Chi vive in questa situazione, pedofilia o omosessualità, che penso che provi una certa sofferenza, perché si vede un po' diverso. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molti dei vostri messaggi stanno arrivando anche su questo argomento, quindi alcuni sull'eventuale intervento militare dell'Italia in Iraq e molti anche su questo caso. E per chiudere, il Nobel per la fisica, oggi è stato assegnato quello per la fisica appunto al giapponese Kaijita e al canadese McDonald per le ricerche sui neutrini. Poi vedremo se riusciremo a capire un po' meglio l'importanza di questa scoperta, naturalmente avranno tutto il merito di ricevere questo premio Nobel, ma sui neutrini diciamo ancora abbiamo poca chiarezza. Intanto vedo moltissimi vostri messaggi, per esempio vado sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di questo sacerdote dalle idee bizzarre, diciamo così. Vela scrive: la Chiesa è un'istituzione con un minimo di etica e senso morale, se lo fosse lo caccerebbe all'istante. È vergognoso, ma pare che abbia revocato gli incarichi. È vergognoso che nella Chiesa Cattolica l'omosessualità venga considerata un problema o una malattia, mentre per la pedofilia ci sia tolleranza e comprensione, scrive Vela. Poi Lorenza dice che la comprensione è un dono di Dio, non per tutti. Paolo: dico che l'ISIS è tra noi, a proposito di queste affermazioni. Poi Donata esclama: Dio mio, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Michele: che dà da pensare questa cosa, che dire, che dà da pensare. Adriana: che dire, mazzata sui denti. Per Federica: è allucinante, queste affermazioni sono allucinanti. Floriano: una dichiarazione penosa. Continuate con i messaggi sulla pagina Facebook e anche gli sms al 349-238-6666. Poi man mano ci addentriamo negli argomenti. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Umberto da Genova scrive al 349-238-6666: quel prete che dice che la pedofilia è colpa dei bambini è un pazzo da scomunicare, direi che offline il suo cervello. E molte anche le vostre riflessioni sulla pagina Facebook del programma, poi man mano con un po' di tempo le leggerò. Vedo anche tanti messaggi sulla questione dell'eventuale intervento militare italiano in Iraq. Invece di bombardare i terroristi potremmo continuare a essere ipocriti come con i riscatti, e poi molti altri messaggi. Adesso però vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata e poi ci addentriamo man mano, come vi dicevo, negli argomenti. Allora, naturalmente questa che in primo piano, questa eventualità dei tornado italiani contro l'ISIS, scontro in Parlamento, e poi c'è l'alta tensione anche tra Mosca e la NATO per i bombardamenti in Siria, che non si capisce bene contro chi stiano avvenendo. Poi stop all'ostruzionismo sulle riforme, ne parleremo tra pochissimo. La maggioranza tiene, le opposizioni parlano di resistenza passiva da parte loro, e poi il Fondo Monetario Internazionale che alza le stime sull'Italia, può fare meglio della Germania, ma ci vogliono le riforme. Poi il sacerdote, che diciamo è il caso di oggi, capisco la pedofilia, non i gay, la diocesi di Trento gli revoca gli incarichi. Accuse sulle spese di Marino, la procura apre un fascicolo, però per il momento non c'è ipotesi di reato. E poi un accordo tra l'Unione Europea e la Turchia per una maggiore riammissione e accoglienza dei profughi. E poi il Nobel per la fisica, le ricerche sui neutrini, premio al giapponese Kajita e al canadese McDonald. Avete sentito, via libera dell'Aula del Senato oggi all'articolo 10 del disegno di legge riforme, cosiddetto disegno di legge Boschi. Ne parliamo con Elisabetta Fiorito in diretta da Roma. Ciao Elisabetta. Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera Roberta. Ciao Elisabetta, dico solo che il Presidente del Senato Grasso ha detto: oggi è stata una giornata intensa, faticosa e carica di tensione. Dici un po' tu. Allora, diciamo che si è passato dai milioni di emendamenti con l'algoritmo presentati da Roberto Calderoli come forma di ostruzionismo a questa invece forma di resistenza passiva, cioè le opposizioni sono state in aula, hanno votato ma non sono intervenute, quindi i lavori erano abbastanza veloci. Non è stato una ventina, come ha detto Paolo Romani, sull'articolo 10, che è quello sulle procedure legislative, cioè come poi si andrà a comporre, a votare per questo o per quello, ma per arrivare magari agli altri articoli che saranno un po' il cuore del provvedimento, a parte l'articolo 2 già approvato, che sono quelli sull'elezione del Capo dello Stato, su cui l'opposizione chiede sostanzialmente un cambio di marcia, cioè il dialogo con la maggioranza e la possibilità di aprire a delle modifiche. A questo il presidente dei senatori PD Luigi Zanda ha detto no, fondamentalmente ha detto: abbiamo capito la resistenza passiva, però noi siamo la maggioranza, a un certo punto la legge deve essere votata, e quindi poi alla fine la maggioranza ha tenuto anche su un voto segreto in cui addirittura è arrivata a quota 153 voti, ricordiamo che la maggioranza assoluta in Senato è 161, e a quel punto però comunque poi il provvedimento, cioè l'articolo 10 è passato, e quindi si continua a ritmo serrato per approvare il provvedimento entro il 13 ottobre, perché poi sappiamo inizia la sessione di bilancio e quindi tutto il Parlamento è bloccato su quello che è la legge di stabilità, l'ex finanziaria, tanto per farci capire. Betta, bisognerebbe oggi dire che quanto quello che hai detto ai tempi che hai raccontato dovrebbero farcela entro sì, il 13. Sì, ce la dovrebbero fare. E poi la cosa fondamentale da dire, anche oggi non sono mancate un po' di polemiche, no? Abbiamo sentito questa accusa dei 5 Stelle su Pietro Grasso, il Presidente del Senato. Dicono che è come l'arbitro Moreno, cioè quello che... Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Betta, se vuoi, perdonami. Sì, sì, sentiamo se è questo. Stiamo giocando una partita, pur essendo, come le dicevo stamattina, tutte le forze di opposizione, maggioranza, ma pesantemente maggioranza nel Paese, una partita dove un'unica squadra gioca con dei giocatori in più, e ha visto anche di quale genere sono, e con l'arbitro Moreno. Quindi noi parteciperemo ai lavori. Guardi, questo accostamento non glielo consento. Visto però... che accanto a un esperto anche arbitro, sa bene che cosa significa questo accostamento. Quindi non glielo consento. Povero Grasso, ecco, diciamo, l'accostamento all'arbitro Moreno, tanto odiato. Grasso è diciamo così, l'oggetto, il bersaglio di molte critiche, no, da parte dell'opposizione in questi giorni. Allora, l'arbitro Moreno, lo ricordiamo, poi per chi non è appassionato di calcio come non sono io, mi sono andata a documentare, è quello che ha eliminato l'Italia nel 2002 in Corea. In modo molto però, sospetto, ecco, pareva, diciamo così. Sì, diciamo che il Movimento 5 Stelle accusa questo ass un po' sui verdiniani. Oggi abbiamo avuto a Radio 24, a Mix 24, Dennis Verdini, che ha detto che lui continuerà a votare la riforma e continuerà a votare volta per volta varie riforme, tra cui anche ha detto sì alle unioni civili. Quindi Roberta, vediamo. Aspetta. Questo però ha detto che non entrerà in maggioranza, e questa è un po' l'accusa che fanno le opposizioni, soprattutto il Movimento 5 Stelle, ma anche Forza Italia e la Lega, perché ricordiamo che i verdiniani sono stati eletti poi con il centrodestra. Quindi queste sono un po' le contestazioni, vediamo cosa succederà sugli articoli relativi all'elezione del Presidente della Repubblica. Al prossimo aggiornamento allora, cara Betta. Ciao Elisabetta Fiorito, ciao. E ora passiamo invece alla lotta al terrorismo fondamentalista, e anche qui si è aperta una polemica, no? Perché a proposito dei bombardamenti sulla Siria sappiamo le tensioni, ne abbiamo parlato diverse volte in questi giorni, tra la NATO, quindi l'Alleanza Atlantica, e la Russia, perché la NATO accusa la Russia di, sapete che da qualche giorno sta compiendo dei raid sulla Siria, dei bombardamenti, di colpire non le postazioni dell'ISIS ma quelle dei ribelli anti-Assad e anche dei ribelli soprattutto poi addestrati dalla CIA, quindi dagli Stati Uniti, e i civili anche addirittura. E poi si è innescata anche questa polemica più italiana, in realtà, anche se poi si innesta naturalmente in un contesto internazionale, dell'eventualità che l'Italia cominci a bombardare l'Iraq, quindi intervenga militarmente. Mi pare che ci sia anche una dichiarazione, sì, al TG1 ce l'abbiamo, della ministra della difesa Roberta Pinotti. Sentiamo cosa ha detto. L'Italia nella lotta all'ISIS in Iraq c'è sempre stata, ci siamo a Erbil, siamo a Baghdad, ci siamo con i nostri addestratori, con i carabinieri e con aerei da ricognizione che partecipano all'operato della coalizione. Eventuali diverse esigenze sulla base del rapporto con gli alleati e con il governo iracheno verranno valutate, ma certamente passeranno al vaglio del Parlamento. E il ministro Gentiloni, vedo poco fa un'agenzia in cui dice nessuna nuova decisione sui raid in Iraq. Poi moltissimi vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Erminio da Bergamo, bombardare l'ISIS? Sì, subito, ma andava fatto molto prima. Mentre Davide dice, ma per quale Stato una persona dovrebbe andare in guerra, corrotto, colluso, antipatriottico? E poi dice, la Costituzione italiana non rinnega la guerra. Parliamo di tutto questo con Stefania Azzolina, analista del CESI, del Centro Studi Internazionali di Roma. Buonasera, dottoressa Azzolina. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Quindi ha sentito, no, da una parte le tensioni in Siria tra la NATO e la Russia. Lei ha capito bene quali sono gli obiettivi, perché c'è questa polemica. Adesso anche la Turchia insiste sul fatto che ci sono dei MiG russi che puntano degli aerei turchi. Non si capisce chi bombarda chi a questo punto, che gioco stiano giocando. Allora sì, questa polemica risale già alla fine della scorsa settimana, quando appunto la Turchia aveva denunciato una fondamentalmente violazione dello spazio aereo nazionale da parte di MiG russi. In realtà tutta questa polemica vi fa un po' emergere quello che è il clima, come appunto diceva giustamente lei prima, e quindi le tensioni che ci sono tra la NATO e la Russia, in modo particolare tra tutti quei paesi che al momento partecipano alla coalizione internazionale in Siria, che fondamentalmente si stanno concentrando contro gli obiettivi presenti, quindi centri di comando e controllo, depositi di armamenti dell'IS, e dall'altra parte invece la Russia che effettua dei bombardamenti non soltanto sulle postazioni dell'IS, ma anche contro quei ribelli come l'Esercito della Conquista, una formazione che vede al suo interno la costola siriana di Al-Qaeda, e tutti quei gruppi di ribelli tra i quali appunto alcuni hanno ricevuto nei mesi scorsi un addestramento della CIA. Che sono quelli che vorrebbero far fuori Assad, come anche gli Stati Uniti vorrebbero, esattamente, no? Sì, presidente siriano. Ci sono queste reciproche accuse che di fatto sottolineano la distanza al momento tra, diciamo, la visione dei paesi occidentali e la Russia su quello che sarà il ruolo di Assad nel futuro assetto siriano. Anche se ieri diceva Assad, poi bisogna vedere un dittatore sanguinario del genere quanto sia attendibile, ha detto beh, se le cose si possono ricucire nel momento in cui me ne vado, allora me ne andrò, ma insomma come si possono prendere naturalmente con le pinze parole dette da un personaggio di questo tipo, no? Sì, in questo momento insomma si è fondamentalmente alla ricerca di una sintesi politica che è assolutamente fondamentale per ipotizzare una stabilizzazione della situazione italiana. Dottoressa Azzolina, poi si chiedono per esempio alcuni ascoltatori come Renzo da Imperia, abbiamo già visto come sono andate le cose quando siamo intervenuti in Afghanistan, io aggiungerei in Libia soprattutto, no a nessuna azione di guerra, qualcuno dice ma l'Italia non ripudia la guerra. È caduta la linea, evidentemente come al solito ci sono, speriamo che non ci sia la CIA di mezzo, anche perché nulla stiamo dicendo diciamo nei confronti della CIA. Riprendiamo la telefonata con Stefania Azzolina, che è analista del CESI, dicevamo. Intanto vedo che anche sull'Afghanistan, visto che lo citava questo ascoltatore, Gentiloni dice un errore degli Stati Uniti tragico e ingiustificabile, quindi cominciano un po' di consapevolezze anche di accuse reciproche, il tragico ingiustificabile errore avvenuto nell'ospedale, parla però non della guerra diciamo in Afghanistan in generale, ma del fatto che gli Stati Uniti, sapete, in questi giorni hanno bombardato un ospedale di Medici Senza Frontiere, i Medici Senza Frontiere hanno dovuto abbandonare il territorio. Ci risiamo con la dottoressa Azzolina? Sì, eccoci. Aveva avuto un momento, diciamo, la linea di cedimento. Allora, stavamo dicendo, c'era fra gli ascoltatori qualcuno che dice abbiamo già visto come sono andate le cose quando siamo intervenuti in Afghanistan, mi sa che ultimamente si sottolinea soprattutto come sono andate in Libia, no? Le cose, ma anche in Iraq, e poi chiedono diversi ascoltatori ma l'Italia non ripudia la guerra? Bisogna sempre, quando si parla di operazioni militari sul campo, è appunto proprio questi contesti che sono stati citati, l'Afghanistan e la Libia, esprimono proprio la necessità di utilizzare lo strumento militare sempre ai fini politici, ovvero se non vi è da prima una strategia politica chiara, se non si hanno degli interlocutori credibili, un intervento militare può in un certo senso scoperchiare il vaso di Pandora e quindi creare una situazione tipo Afghanistan o soprattutto la Libia che c'è vicina. Ma invece sul fatto che c'era questa indiscrezione di stampa, oggi era il Corriere della Sera che aveva anticipato questa cosa, addirittura parlava di bombardamenti che dovevano avvenire nei prossimi giorni, se questa cosa è trapelata, qualcosa di concreto ci sarà stato? Allora, quindi come giustamente lei ha sottolineato, non è stata presa alcuna cura decisione al riguardo, come ribadito abbiamo visto anche dal Ministero della Difesa. Se si vuole parlare quindi in termini nettamente ipotetici, è chiaro che un possibile intervento italiano in Iraq potrebbe essere al vaglio tra altre tante ipotesi che l'Italia sta valutando con i suoi alleati. Riguardo l'imminenza, è comunque necessario sottolineare che qualora dovessero cambiare le regole di ingaggio, comunque bisognerebbe tener conto dei tempi necessari ad una riconfigurazione dei nostri Tornado già di stanza in Kuwait, ovvero bisognerebbe fornirgli gli armamenti o comunque di tutto quel supporto tecnico e logistico necessario affinché si possa ipoteticamente sempre compiere un'operazione di attacco aereo. Quindi ipoteticamente sempre sarebbero necessari almeno un mese. Quindi non l'imminenza, insomma. Comunque, no. Adesso queste sono le dichiarazioni, abbiamo sentito del Ministero della Difesa, abbiamo sentito anche il sottosegretario, la ministra Pinotti, che poi è lei la rappresentante della difesa in Italia. Quindi intanto grazie dottoressa Stefania Azzolina. Grazie. Grazie a voi, grazie. Buona serata. E a proposito di chi chiede dell'Italia che ripudia l'articolo 11 della Costituzione, che dice, recita così: ripudia la guerra l'Italia come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Quindi diciamo può essere eletta in diversi modi a seconda delle situazioni. Voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effettonote e con gli sms al 349-238-6666. Ci sentiamo giusto tra qualche attimo. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E vedo ancora Roberto Giordano con voi, vedo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook o al 349-238-6666, tutti un po' sul prete che ha difeso in qualche modo la pedofilia, quello di Trento, e poi anche invece sulla questione dell'eventuale intervento militare dell'Italia in Iraq. Dice Luca da Torino: il Fondo Monetario Internazionale ci premia solo perché stiamo riducendo lo Stato sociale e la democrazia, l'Italia è un fantasma. Questo rispetto alle stime al rialzo del Fondo Monetario Internazionale riguardo all'Italia. Invece sulle altre questioni, dice Olga, un vecchio proverbio dice: chi di spada ferisce di spada perisce, ma i secoli di guerra non hanno insegnato nulla, no alla guerra e diamo ai nostri figli un futuro di pace. Dice: svuotiamo gli arsenali e riempiamo i granai, così diceva Pertini, che aveva vissuto la guerra. Ma sapete che si ripetono fino alla noia i cicli umani. Poi un altro ascoltatore: il prete di Trento, dimostrazione che il celibato è un'istituzione che deve ormai essere abbandonata perché genera patologie che pervadono l'intero organismo e lo indeboliscono, del resto si tratta di regola introdotta nella Chiesa solo dopo vari secoli di vita. E molti altri messaggi, però adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti se avete acceso la radio adesso invece che puntualmente alle 21. Naturalmente sempre questo dibattito sull'indiscrezione dei possibili tornado italiani contro l'ISIS in Iraq. Adesso vedevo anche Gentiloni che dice: nessuna nuova decisione, anzi di nuovo la ministra Pinotti che dice: sarebbe scontato il coinvolgimento del Parlamento, a proposito delle polemiche. Poi stop all'ostruzionismo sulle riforme, la maggioranza tiene, le opposizioni mantengono invece una resistenza passiva, scontro tra Grasso e il Movimento 5 Stelle. Fondo Monetario Internazionale alza le stime dell'Italia, può fare meglio anche della Germania, dicono dal Fondo Monetario. E poi il caso del sacerdote di Trento: capisco la pedofilia, non i gay, e la diocesi gli revoca gli incarichi. Accuse sulle spese di Marino, del sindaco di Roma. La procura della capitale apre un fascicolo, ma per il momento non c'è ipotesi di reato. E poi un accordo tra l'Unione Europea e la Turchia per l'accoglienza dei profughi, di cui parleremo tra pochissimo. Appunto, proprio di questo, dell'emergenza profughi. Da domenica intanto quasi 100 profughi sono morti al largo delle coste libiche, lo rivela l'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, riportando notizie non confermate raccolte dalla Mezzaluna Rossa libica, cioè dalla Croce Rossa libica. Dall'inizio dell'anno, questo è il numero terribile che dà l'OIM, attraverso il Mediterraneo sono arrivati in Europa, non è questo il numero terribile, insomma 500.899 migranti, e i profughi morti sono 2.987, quindi praticamente quasi 3.000 morti dall'inizio dell'anno tra coloro che hanno attraversato il Mediterraneo. E la tragedia dei rifugiati continua a creare, come sentite, attriti tra le istituzioni europee e i vari paesi dell'Unione Europea, no? Tra muri, tra chi dice noi non li vogliamo, non c'è ancora un accordo effettivo e operativo, per esempio, sulle quote. Però è notizia di oggi che l'Unione Europea ha annunciato un accordo con la Turchia per la gestione dell'emergenza, e in pratica Bruxelles e Ankara si sono impegnate oggi a rafforzare la loro cooperazione sulla crisi dei migranti, e in cambio, quindi finanziando anche la Turchia, e Ankara aprirà 6 centri d'accoglienza. Ne parliamo col professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università Statale di Milano, che ha scritto numerosi testi, numerosi libri anche sull'immigrazione. Professor Ambrosini, buonasera. Buonasera a voi. Senta, vedevo poco fa, fra l'altro, a proposito dell'emergenza migranti, che il ministro Gentiloni, che sta facendo diverse dichiarazioni adesso negli ultimi minuti, dice: sul tema dell'immigrazione l'Italia è indicata come esperienza modello soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite. È vero questo, o lo facciamo un po' per... È vero che abbiamo supportato un certo carico, ma l'abbiamo fatto bene? Siamo un modello. Ma noi abbiamo dei meriti certi per quanto riguarda il salvataggio in mare. La primissima fase. Lì, in particolare con l'operazione Mare Nostrum, l'Italia ha dato un esempio importante, quando in altri paesi ci si trincera dietro le acque territoriali per non accorrere in soccorso dei profughi in mare, e quando non si usano anche metodi pesanti per respingerli. Siamo andati meno bene per quanto riguarda poi l'accoglienza successiva. Qui scontiamo delle carenze antiche. L'Italia non ha ancora, per esempio, una legge organica sull'asilo. Solo da una dozzina d'anni si è data un sistema di protezione e accoglienza dei rifugiati, lo SPRAR, ma vediamo, con anche i problemi di contenzioso Stato, Regioni, autorità locali, che le fasi successive dell'integrazione sono ancora da mettere in piedi in maniera efficace. Professor Ambrosini, le chiedo proprio in chiusura, so che anche lei è impegnato, che ne pensa di questo accordo tra l'Unione Europea e la Turchia? Era probabilmente necessario, no? Perché anche da Turchia, insomma, scappano da lì, è una delle rotte. Sì, la Turchia è il primo paese al mondo per accoglienza di rifugiati nel 2014, 1.600.000, adesso saranno probabilmente 2 milioni. Una parte degli arrivi, in particolare quelli verso la Grecia, sono dovuti al fatto che la Turchia non ce la fa più o dice di non farcela più. L'ONU non finanzia a sufficienza le sue agenzie e i campi di prima accoglienza dei rifugiati. Detto questo, dal nostro punto di vista è una scelta per certi versi logica, per altri ipocrita, perché noi tentiamo di fare verso l'esterno quello che i paesi del nord Europa vogliono fare con noi, cioè cercare di localizzare i rifugiati il più lontano possibile dai luoghi dove loro vorrebbero andare. Quindi io credo che sia giusto una prima accoglienza nei luoghi vicini, i primi luoghi sicuri, ma poi ci vuole un sistema che già c'è, ma bisogna farlo funzionare meglio, che si chiama ridispiegamento, che vuol dire che i profughi possono fare una domanda e, se hanno ragione per poter chiedere asilo ed essere accolti, poter andare da verso un'altra altri parte. Paesi. Professor Ambrosini, quindi abbiamo capito che la strada è ancora molto lunga, avremo tempo di risentirci tante altre volte. Grazie professor Maurizio Ambrosini. Grazie a lei, buonasera, buon lavoro. Buonasera. Serata. Di abilità. Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Mentre continuano i vostri messaggi tra pagina Facebook Effetto Notte, il 349-238-6666, i titoli principali riguardano l'economia, il Fondo Monetario Internazionale che taglia le previsioni di crescita globale ma rivede al rialzo le stime sull'Italia. E per le riforme il Senato approva l'articolo 10 con 165 sì e 107 no, per cui la maggioranza procede pur in mezzo insomma alla resistenza passiva delle opposizioni, come l'hanno definita. La lotta al terrorismo, tensione tra Turchia e Russia sui bombardamenti in Siria, e Grillo protesta sul possibile impiego di Tornado italiani in Iraq. Per il Nobel assegnato quello per la fisica, il premio assegnato al giapponese Kajita e al canadese McDonald per le ricerche sui neutrini. Europa 24 notte. Parliamo di questo sussidio di disoccupazione comune dall'area euro, una sorta di scudo per proteggere i futuri disoccupati europei. È la proposta lanciata dal ministro d'economia Padoan, ribadita anche questo pomeriggio durante un suo intervento all'Università del Lussemburgo. Ma sentiamo come funziona. Una proposta di un sistema di assicurazione per la disoccupazione ciclica nella zona euro, che potrebbe essere finanziata da risorse comuni e potrebbe essere fatta senza cambiare i trattati, quindi anche subito se c'è la volontà politica. Questo ha un forte significato sostanziale, ma anche un forte significato simbolico, perché ci ricorda che l'unione monetaria non è solo moneta e banche. Insiste il ministro dell'economia Padoan sul valore simbolico del meccanismo da lui proposto, per ricordare che l'unione monetaria non è solo moneta, banche, politica fiscale, ma anche politica per la crescita e il lavoro. Dunque un sistema che dimostri la volontà dell'Europa di sostenere direttamente i cittadini in difficoltà e di spostare il baricentro verso i temi dell'occupazione. Un assegno continentale per proteggere temporaneamente e a integrazione degli ammortizzatori sociali nazionali chi resta senza lavoro, una sorta di scudo europeo per i futuri disoccupati. Quelli attuali in Europa sono già ben oltre 23 milioni tra donne e uomini, di cui 4 milioni e 600 mila giovani. Sarebbe un meccanismo che permette in via temporanea a un lavoratore disoccupato per via di uno shock che colpisce l'unione monetaria, diciamo, di traghettare il suo lavoro da una situazione di disoccupazione a un nuovo lavoro, quindi una estensione a livello di unione monetaria di meccanismi che a livello nazionale già ci sono. Però il valore aggiunto sarebbe il fatto che si riconosce che è un problema europeo o comunque della zona euro e non solo di un paese. Ma come funzionerebbe concretamente il meccanismo? Se c'è un paese che soffre più di un altro di un aumento della disoccupazione ciclica, quindi non è tanto il livello quanto la variazione, come sappiamo a livello nazionale ci sono, prima c'era la cassa integrazione in Italia, c'erano sistemi analoghi. Adesso una parte di queste risorse potrebbero essere tratte da un fondo comune, perché in realtà è uno shock che colpisce la zona euro in modo asimmetrico e quindi potrebbe facilitare l'aggiustamento che in altri casi richiede un forte aumento della disoccupazione. In questo caso la disoccupazione sarebbe mitigata permettendo un aggiustamento più soffice. Il benefit potrebbe durare tra 6 e 8 mesi, rimpiazzando tra il 40 e il 50% degli stipendi dei lavoratori, e darebbe sollievo temporaneo ai paesi colpiti da shock che generano più disoccupazione del gestibile, poi sarebbe sospeso. Tuttavia c'è già chi lo critica, in quanto il meccanismo potrebbe scoraggiare un paese a portare avanti riforme strutturali del mercato del lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2015 Nobel Prize in Physics to Takaaki Kajita and Arthur B. MacDonald for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass. Ecco il solenne annuncio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Stoccolma, dell'Accademia di Stoccolma, per l'assegnazione dei Nobel per la fisica. Ieri abbiamo parlato di quelle della medicina, per la medicina, che c'erano un po' più chiare le motivazioni, diciamo. Fisica 2015, quindi, è stata assegnata, avete sentito i nomi, al giapponese Takaaki Kajita e al canadese Arthur MacDonald per le loro scoperte relative alle particelle più sfuggenti dell'universo, più oscure dell'universo, che sono i neutrini. Non so se ricordate qualche tempo fa un ministro, cioè una ministra dell'istruzione, che fece un po' una gaffa, diciamo, rocambolesca, così fantascientifica, su questa storia dei neutrini. Ma chiediamo qual è l'importanza di aver capito qualcosa di più su queste particelle alla professoressa Luisa Cifarelli, che saluto. Buonasera, professoressa. Buonasera. Che è presidente della Società Italiana di Fisica e docente di fisica sperimentale all'Università di Bologna. Allora, tra le motivazioni si diceva che gli studi di questi due scienziati hanno permesso per la prima volta di stabilire che i neutrini hanno una massa, e noi siamo contenti di questa notizia perché una massa non si nega a nessuno, professoressa Cifarelli, no? non c'è dubbio, anche se ci sono delle particelle che non ce l'hanno, come per esempio il fotone. Poverelle. Ecco, poverelle. Il fotone niente particelle. Il fotone niente. Sì, senta, ma sì, è una grande scoperta, un bellissimo premio Nobel quest'anno che ci rende tutti molto fieri delle ricerche fondamentali che vengono fatte in questi laboratori sotterranei, in queste bellissime caverne che sono delle cattedrali piene di fototubi, di acqua e cose interessantissime. E questi neutrini, lei lo sa, sono stati anche diciamo un affare di famiglia qui per noi italiani, perché è vero che l'esistenza dei neutrini l'aveva postulata per prima il fisico Pauli, che è un austriaco molto importante, ma c'è un'italiana di mezzo, se non sbaglio. C'è un italiano, c'è Enrico Fermi di mezzo. La grande scoperta adesso è che senza tunnel di nessun genere questi neutrini possono venire dal Sole passando attraverso l'atmosfera e arrivare sulla Terra, oppure addirittura dall'altra parte della Terra, quindi attraversando tutta la Terra. Ecco, in questa maniera è stato possibile mettere in evidenza, indipendentemente e con delle differenze nei due esperimenti di cui si parla, che un tipo di neutrino proveniente per esempio dal Sole, durante il suo viaggio si può trasformare in un altro tipo di neutrino, si può oscillare. Cambia identità praticamente, quindi. Cambia identità, ecco, però nella meccanica quantistica questa cosa è possibile se e solo se questi neutrini hanno, sia pure piccolissima, una massa. E è veramente una notevole scoperta, perché questo nel famoso modello standard, di questo hanno sentito parlare tutti, no? Non è previsto. Quindi è una cosa che ci fa vedere che esiste, al di là dello schema attuale ricchissimo del mondo subnucleare che descriviamo col modello standard, esistono anche delle cose ancora bellissime da scoprire, proprio perché abbiamo capito che questi neutrini escono fuori dallo schema e hanno massa. Ecco, le faccio un'ultima domanda, professoressa Cifarelli, ma noi interagiamo con questi neutrini in qualche modo? Siamo completamente sommersi in neutrini che arrivano da tutte le parti, però non ci danno nulla. Questi neutrini, praticamente nulla. Pensi, le dico solo questa, questo piccolo episodio divertente, che quando lavoravo al CERN, lavoro ancora ma da giovane ero più frequentemente al CERN, l'accesso alle aree sperimentali è rigidamente controllato per via delle radiazioni. A un certo punto, mentre lavoravo lì, ho avuto la fortuna di trovarmi in stato interessante, aspettavo un bambino. A quel punto tutte le aree sperimentali del CERN sono vietate, tranne le zone dove ci sono solo i neutrini. Per dire quanto sono amichevoli. Non fanno nulla. Sono amichevoli. E questa è una buona notizia. È una buona notizia. Sì. Io la ringrazio, professoressa Cifarelli, per aver spiegato con competenza e con simpatia una cosa così complessa. Grazie, professoressa Cifarelli. Grazie, buonasera. Buona serata. Grazie.